virgolette, spero di non avere mai problemi perché non mi fido dei giudici. Allora se non si fida lei, noi cosa dobbiamo fare? Ovviamente io non posso interpretare il pensiero no, neanch'io, l'ho letto sul Corriere della Sera. Interpretare il mio, io posso dire che invece l'obiettivo nostro è quello di avere giudici che sarà stata una battuta dice. Nei sarà... confronti di tutti e soprattutto lo sforzo, questo parlo anche come rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura, di dare al Paese una magistratura sempre più professionale, attrezzata culturalmente, che però laddove sbaglia... Insomma, sarà stata una battuta. Me lo auguro. Senta, se un'ultimissima cosa, è soddisfatto della legge sulla prescrizione? Mi auguro che si vada adesso... Quello che si è detto ieri, diciamo. Le ultime vicende... che stanno venendo pure all'attenzione dell'opinione pubblica sono una sconfitta per lo Stato prima che per sì, la magistratura. Sì, no, ma la proposta sulla prescrizione di ieri... È una proposta che sicuramente come dire, va nel senso del miglioramento, dell'allungamento dei termini, quindi da questo va bene, quindi va bene. Deve essere accolta con va bene. Favore. Insomma, Mario, Palamara mi sembra che sia, almeno a titolo personale, chiarissimo, bisogna anticipare il momento di selezione delle cose che si depositano per fare una pulizia di quello che c'entra e quello che non c'entra, e chi deposita male e sbaglia paga. Sembra che questa sia cioè, no, diciamo almeno sarebbe da fare CS, subito già adesso fare. Ma anche adesso possono farlo. La realtà è che non lo fanno, anche perché insomma guardati le ultime indagini. Per descrivere il cosiddetto clima, che un clima non è una prova ovviamente, certo, perché le prove poi le devi portare nel processo, e beh, loro mettono di tutto, anche le chiacchiere. Vabbè, però io trovo che questa nulla, cosa capito? Che dice Palamara potrebbe essere un membro autorevole del CSM. Quanto scommetti che in realtà faranno una norma restrittiva sui giornali e basta? Vabbè, vedremo. Questo tu, Pietrangelo, che dici? Io vorrei segnalare la prima pagina del Fatto Quotidiano di oggi con un titolo particolarmente efficace: chi controlla il telefono di Renzi? Ecco, può essere un'affermazione, una domanda, ma la questione è non chiara. C'è il punto interrogativo. C'è da dire che la situazione politico-culturale d'Italia non ha mai chiaro un principio: capire chi abbia il coltello dalla parte del manico. Insomma, capire chi c'è dietro e soprattutto fare i conti con un'autocrazia, qual è la struttura della magistratura in Italia, che non consente alla politica di avere uno spazio di decisione. Però la politica se lo deve prendere lo spazio di decisione. Secondo me, se parla di primato della politica, le leggi le fa la politica, i magistrati le applicano, ma ci sono margini. Ma sudditanza è un fatto culturale. Secondo me il potere ce l'ha chi ascolta oggi, per come è strutturata la società contemporanea. Vero. Oggi è tutto comunicazione. Il potere della comunicazione. 8, chi ascolta e chi registra i dati. 800 24 00 24, 349 238 6666 per gli SMS. Le tasse dalla magistratura, dai giudici alle tasse, sempre buone sempre notizie. Settimana di passione. Sì, appunto. Sono ormai l'angoscia di chi produce, di chi lavora. Riceviamo moltissimi messaggi di artigiani, professionisti, imprenditori che non sanno più a chi denunciare una situazione che è diventata insostenibile. Le vessazioni fiscali non si conoscono neanche quante sono, perché nessuno le ha mai censite quante sono. Un lavoro con il quale non si può più andare avanti, colpa della crisi e di uno Stato che soffoca le imprese con tasse e burocrazia. Si lavora tanto e alla fine del mese, i primi 7 mesi sono di qualcun altro, vanno allo Stato, le tasse. A conti fatti a volte conviene lavorare meno, perdere un po' di lavoro e rinunciare ad avere un dipendente. Vorrei che il Ministro del Lavoro andasse in giro di notte nei panifici, andasse in giro di giorno nei cantieri edili, andasse direttamente dove c'è il lavoro. Allora lì capiscono i problemi reali. Avete pagato anche l'IMU su... IMU, 3.000 euro di IMU. Ho dovuto chiudere perché non ce la facevo più, tasse sopra tasse, non riuscivo più. E sono venuto ad abitare in questo camper. Avevo 12 dipendenti e adesso purtroppo non esercito più. Vengono qua solo a vessare, vai sempre solo a vessare. Tasse. L'Italia. con questa legge di stabilità compie la più grande opera di riduzione delle tasse mai tentata. Dottor Carlo Ticozzi Valerio, commercialista, esperto di consulenza societaria fiscale internazionale. D'accordo col Premier Renzi? Il Premier Renzi sicuramente con la legge di stabilità ha fatto un intervento molto importante e che era molto atteso. Sulle tasse? Sulle tasse in generale e sulla parte relativa anche al costo del personale. Ecco, quindi quando Renzi dice adesso gli imprenditori non hanno più alibi, dice la verità. A mio giudizio dice la verità non completa, diciamo, nel senso che a mio giudizio gli imprenditori attendono ancora provvedimenti in materia fiscale. Ma intanto possono investire di più perché c'è più flessibilità in atto. Sicuramente c'è più flessibilità sul lavoro, sia in entrata che in uscita, e senz'altro questa legge che ha fatto è sicuramente, come l'ha definita anche un grande imprenditore, un elemento molto importante di strategia politica. Senta, dottor Ticozzi Valerio, ma qual è stato il governo tra gli ultimi tre che si sono succeduti che ha aumentato di più la pressione fiscale sulle imprese? Allora, la pressione fiscale sulle imprese, diciamo, è passata negli ultimi anni dal 2011 al 2014 da un 41.6 a un 43.5. Quindi direi che questo incremento è avvenuto principalmente sotto il governo Monti, che naturalmente è succeduto al governo Berlusconi. È quello che ha alzato di più le tasse. Ma si può stimare quanto le deduzioni dell'IRAP sul costo del lavoro faranno risparmiare alle imprese italiane? Ma guardi, qui le stime più accreditate parlano di circa 5 miliardi per l'IRAP, e più ci sono circa 9 miliardi relativamente all'assegno di 80 euro che è stato varato sempre dal governo. Senta, ma la pressione fiscale per chi produce in Italia è sempre tra le più alte in Europa, sì? Questo assolutamente sì, purtroppo. Il total tax rate, secondo le statistiche della Banca Mondiale, pone l'Italia al 138esimo posto su un campionario di 189 paesi interessati dall'indagine. Fra quelli che hanno la pressione fiscale più alta, quindi. Esatto, ah. Ed ha una pressione fiscale, secondo sempre questa statistica, del 65.8%, che sicuramente lo pone al livello più alto in Europa, dove la media è attorno al 42%. Ecco, dottor Ticozzi Valerio, senta cosa ci ha raccontato Fabrizio Castoldi, un imprenditore di una società che fattura più di 100 milioni di euro. Nell'arco di questi 8 anni presi in considerazione, che andavano dal 2002 al 2010, la pressione fiscale media per noi è stata del 70,02%. Ecco, ha scoperto che abbassando l'aliquota lo Stato incasserebbe di più, ho capito bene? Assolutamente. Mi dice in due parole come? Assolutamente sì. Abbiamo ipotizzato invece una tassa, diciamo, a livello europeo, cioè anziché il 70%, il 30%. Quindi abbiamo calcolato quanti denari in più sarebbero rimasti in azienda, che sarebbero stati convogliati in ricerca e sviluppo. Avremmo potuto mettere in produzione 3 progetti in più che abbiamo fermi, avrebbero fatto un 12% di fatturato in più e circa 60 posti di lavoro in più. Cioè, praticamente Castoldi ci dice che se si abbassano le tasse lo Stato incassa di più, è vero? Direi che Castoldi fa riferimento ad alcuni tipi di tassazioni e soprattutto si riferisce a un fatto proprio, perché so che è un imprenditore quotato. Sì. Del milanese, e fa riferimento soprattutto a delle statistiche di Assa Lombarda, la quale sostanzialmente sostiene che nel 50% del campione esaminato vi è una tassazione di circa 35%, mentre nell'altro 50% ecco, ma una tassazione dell'85%. Ecco, ma dottor Ticozzi Valerio, senta, il nostro sistema fiscale penalizza alcune categorie di aziende più di altre? Questo in me direi di sì. Nel senso, e quali sono quelle che subiscono una pressione fiscale maggiore? Pressione fiscale maggiore quelle aziende che occupano maggiore personale e che sono più strutturate, che hanno una maggiore struttura in Italia, che hanno beni immobili, capannoni, le fabbriche, gli uffici, perché ad esempio l'IMU è indeducibile, certo, dal reddito delle società, e quindi questo naturalmente ne aumenta la tassazione. Quindi è lì dove la pressione fiscale potrebbe essere ulteriormente ridotta. A mio giudizio dovrebbero proporre degli incentivi in questo settore, soprattutto in questo settore, dando degli incentivi ma dando anche delle semplificazioni, dottore, perché ecco, però, il nostro sistema fiscale è molto complesso. E infatti l'Europa sta parlando di armonizzazione fiscale, se ne parla tanto, per adesso si fa poco. Mentre ne parlano, quanto pesa la differenza delle politiche fiscali tra i vari paesi europei sulla nostra economia? È un dato che mi è difficile dirle in termini percentuali. Pesa tanto, insomma. Pesa molto, sicuramente molto. Quindi praticamente gli imprenditori che hanno deciso di delocalizzare, che magari lei ha seguito, lo hanno fatto per ragioni fiscali? Assolutamente sì, lo hanno fatto per ragioni fiscali, ma direi non solo, dottore, l'hanno fatto anche per motivi di natura di diritto, di giustizia e per natura di costo del lavoro, l'abbiamo detto, certo. E di fisco. Quindi abbiamo i tre elementi, a mio giudizio, che debbono essere migliorati in questo Paese, sono il lavoro, in cui ci siamo indirizzati nella buona strada, la giustizia e il fisco. La giustizia, anche qui, è molto importante, perché certo, anche i tempi della giustizia civile sono fondamentali. Volevo chiedere... aggiungo la certezza del diritto. Certezza del diritto, naturalmente. Un altro elemento che purtroppo nel nostro Paese è molto oscillante. Senta, ma qual è il Paese europeo nel quale è meglio dal punto di vista della tassazione per chi vuol fare impresa, investire? Ma guardi, nell'ambito dei Paesi europei, diciamo che si è così, a mia esperienza, diciamo, poi dopo naturalmente può certo. essere visitato, cioè, ci sono paesi in cui sono preferite costituire le holding di società e di gruppi, tipo Olanda e Lussemburgo. Ci sono altri paesi dove annidano le società prevalentemente di natura finanziaria, tipo l'Irlanda, e ce ne sono ancora altre dove vengono registrati marchi e brevetti, tipo il Lussemburgo. Senta, ma come... sulla base di un'esperienza. Così certo, naturale, della sua professione. Senta, esatto. Dottor Ticozzi Valerio, ma... come sta procedendo il voluntary disclosure? Cioè lei ha molte richieste? Eh? Allora, la voluntary disclosure è un argomento attuale, con una legge appena diciamo pubblicata a dicembre, e direi che è molto sentita. Le stime di gettito per questa imposta, che non sono precise, però quelle più accreditate di Banca d'Italia parlano di circa 15 miliardi di imposte relative. In più. E quindi dovrebbe essere un bel introito a seguito di questa legge. Insomma, e quindi dovrebbe essere molto più difficile nascondere al fisco italiano le attività produttive. E direi un'altra cosa, che ad oggi, stando alle notizie che sono state pubblicate, sarebbero già state presentate 7.000 richieste di rimpatrio nella provincia di Como e 5.000 nella provincia di Milano, che mi sembra già un numero. 11.000 soltanto tra Como e Milano. Tra Como e Milano ad oggi. Bene, allora forse sarà una strada buona per incassare tanti soldi e quindi forse per poter intervenire anche dal parte della leva delle tasse. Questo penso proprio di sì. Mix 24. Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto. Fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo. Ma è Pietrangelo? Non è la Sicilia. Oggi in metropolitana il niente e il nulla hanno preso posto e hanno fatto del convoglio un nirvana. Dalla stazione Cornelia a quella di Termini a Roma, tutta la corsa è stato un viaggio nella contemplazione. Le cose che non ci sono abitano ogni cosa, ha detto il filosofo. E ciò che non c'è è nel ciò che è, ha risposto il professore di filologia bizantina. E quando entrambi... ancora col cappotto, malgrado la prima primavera, hanno scrutato nel volto i pendolari naufraghi tutti dell'isola che non c'è, hanno trovato in loro le tracce dell'invisibile, più forte di ogni niente, quell'invisibile più potente di ogni nulla, e in un uomo, uno in particolare, dandosi di gomito, hanno scovato il segno tangibile dell'invisibile. Questo hanno scoperto il professore di filologia bizantina e il filosofo. Hanno scoperto l'infinito sfregio d'amore per lei che non c'è, ma resta per sempre. Non è un'invenzione, e neanche un gioco di parole. Se ci credi... Non ti mancano argomenti oggi, Mario, per la tua bolla? Cose belle dal mondo. Superpensioni, drag e più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate. Beh, dai, siamo partiti con i cantautori italiani stamattina. Oggi scatenati. Io e Pietrangelo, no? Prima Bennato, poi Rino Gaetano. Sai che c'è stata una protesta di Sergio Caputo nei confronti delle radio, e per fortuna noi non c'entriamo perché... No, beh, noi lo passiamo tanto. Dove dice che c'è il rischio di grandi tradizioni, di come lui, Paolo Conte, adesso tanti altri, che rischiano di sembrare... cancellati, e noi invece perché le cosiddette holding delle, delle musiche, le playlist non li prevedono, le playlist, vabbè, non da noi. Io avevo messo Rino Gaetano per un motivo, lo tiriamo un po' su invece, per un semplice motivo. Giovanni, c'è il rimpasto, ma tu sei così colpito dal rimpasto, ti vedo veramente preso, fila alle edicole. Ho visto dei giornali aprire sul rimpasto, su Del Rio che va al posto di Lupi, è la cosa veramente emozionante. Sai, sì, zia Maria mi chiedeva: ma quando va Del Rio al posto di Lupi? E io gli ho detto: zia, devi aspettare un po', qualche giorno poi arriverà. Insomma, la verità è che questo dibattito non serve assolutamente a nulla, e le cose importanti ovviamente stanno succedendo altrove. E dove? Ma magari potremmo sentire qualche altro. E allora, il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, per dire cose importanti che possono cambiare e impatteranno sulla nostra vita, ha rivelato che siamo un passo dall'accordo tra Iran e Stati Uniti. Quindi anche la questione dello stoccaggio, del trasporto del materiale nucleare, pare trovi una soluzione. Stamattina sono ripresi i colloqui a Losanna, secondo appunto la Russia, che è fondamentale in questa partita, come già dicevamo ieri, e non a caso poi è arrivata appunto questa dichiarazione di Lavrov, c'è anche una bozza. E guardate che questa cosa qua cambia lo scenario cambia tutto lo scenario del Medio Oriente. Con Pietrangelo stamattina dicevamo: chi ha vinto a Tikrit, Pietrangelo? Per i giornali occidentali una strana coalizione non ben definita. Suleiman vince l'Iran. Allora, il gioco, solo una cosa, il gioco geopolitico in quell'area sta cambiando totalmente lo scenario. Salamino. In Forza Italia cambiano le cose, perché restano in tre: Silvio Berlusconi, Maria Rosaria Rossi e Dudù. Siamo rimasti in tre, tre somari e tre briganti sulla strada longa, longa di Girgenti. Allora, tre briganti e tre somari. I briganti si conoscono. Chi saranno i tre somari? Allora, è successo che Sandro Bondi e Emanuela Repetti se ne sono andati. Non sono due qualunque, sono il simbolo di una fedeltà tradita, umiliata, relegata nel sottoscala dal cerchio magico. Ma direi, se si propone di saltare sul burrone, uno passa al fronte opposto, l'altro passa sull'arcione, due si mettono di fuori, uno sfodera il trombone, l'altro balza sul cannone, uno lega la vedetta, uno ammazza la staffetta, uno attacca gli artiglieri e li prende prigionieri, uno intanto fa man bassa con i viveri e la cassa. Per i nemici non c'è scampo quando resta Silvio in campo. Ma se siamo tre, tre somari e tre briganti, sono tre. E resta da capire chi siano i somari. Allora, provo a fare qualche nome. Gianfranco Rotondi, per esempio, artefice del governo ombra. Secondo me somaro non è, perché è il più spiritoso e ha capito che a forza di fare il partito liberale di massa ci si ritrova in una cabina telefonica. Maurizio Gasparri, secondo me somaro non è, perché tra tutti gli ex colonnelli di Alleanza Nazionale è l'unico ad avere capito che stare con Berlusconi è meglio piuttosto che con gli Orfani d'Italia, come si chiama quel partito non lo ricordo bene, e i tre somari allora ci sarebbero, ma sono scappati dalla stalla. Secondo me sono 27 i somari, sono al governo con Renzi, sono quelli dell'NCD, ma ne parleremo nel prossimo Salamino. Intanto, ancora una volta, i tre briganti. Ma se siamo tre, tre somari e tre briganti, sono tre. Sara, oggi, Sara Tardelli, oggi dove ci porti? Io non sono sano, io non sono fatto, io non sono vero, io non sono falso, io non ti porto iella né fortuna, io sì. Domani è la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, una disabilità psichica che purtroppo, come tutti i problemi che riguardano il cervello e l'anima e sono invisibili agli occhi, fanno paura e alimentano pregiudizi. E invece io lascerei crescere l'amore e la voglia di condividere la vita con le persone che incontriamo sulla nostra strada. Chi vuole vivere questa giornata però concretamente e non solo a parole è invitato domani alle 18 al Maxi, il Museo di Arte Contemporanea a Roma. E per l'evento I nostri figli sono opere d'arte. Allora domani alle 18 vi aspettiamo, genitori, figli, amici, giornalisti, single, zitelle, belli, brutti, sani, pazzi, non importa, ci sarà Gianluca Nicoletti che ci accompagnerà in un evento pieno di sorprese. L'importante è che se giunge l'ora e qualcuno ha un seme con l'intenzione di piantarlo, lo faccia, come riporta nel suo nuovo libro Pietrangelo Buttafuoco, che ci spiegherà meglio il senso di questa frase. Insegnami a guardare il mondo con il tuo sguardo, invitami a giocare rotolando sul pavimento, aiutami a trovare la purezza e l'innocenza e l'immensa meraviglia che sta nell'incoscienza. Insegnami. Mix 24. Allora, questo è un pezzo che si chiama Do or Die, fai o muori, e lo consiglio, lo usiamo per la Libia. Ne hai più sentito parlare? No. È sparito dai radar, fa ondate la cosa sui giornali, non se ne occupano quando vedono l'ISIS, poi tanto poi va tutto bene. In realtà invece lì non va, c'è bene. Un caos, è una situazione tragicomica, ci sono due governi, quello di Tobruk e quello di Tripoli, due parlamenti, e quello di Tobruk è quello ufficialmente riconosciuto dalla comunità internazionale, quindi non è riconosciuto dai libici, o meglio da non tutti i libici, come potete immaginare. E insomma nessuno comanda, l'Europa abbaia parecchio ma non morde mai. E c'è anche un caso incredibile con l'Italia, un caso diplomatico, perché il governo di Tobruk ha mandato una lettera alla presidente Boldrini, quindi a Montecitorio, alla Camera, per dire che non è stato ancora fatto il processo di accreditamento del nuovo ambasciatore. Questo potrebbe compromettere le relazioni col governo internazionalmente riconosciuto. La cosa, non so se dire divertente, comica, tragica, vedete un po' voi, insomma, che il nuovo ambasciatore poi si è presentato all'ambasciata a Nomentane, pare sia stato cacciato da quello che c'è adesso. Insomma, una situazione incredibile anche dal punto di vista delle relazioni, delle, diciamo così, minime relazioni diplomatiche. Ricordo solo che si è arrivato perché qualche ministro ha detto addirittura che eravamo pronti a una missione di terra in Libia. Ma se non riescono a accreditare neanche un ambasciatore, ma di che cosa stiamo parlando, signori? Prego. Salamino. Non sono tre, sono 27. 27 deputati di NCD, che sarebbe il nuovo centrodestra, contro, incredibile, contro una signora. C'è nell'aria l'idea di convocare un'assemblea di deputati per rimuovere Nunzia De Girolamo dal suo incarico di capogruppo. La vicenda, sia detta per inciso, è squallida. Maurizio Lupi, come sappiamo, si è dimesso da ministro ed è urgente trovare una degna collocazione. Il posto migliore è dunque quello della De Girolamo, che ha gli occhi acquosi di Angelino Alfano, ha un grave peccato. Ha chiesto di uscire dal governo Renzi proprio per difendere Maurizio Lupi e la dignità della politica, qualora la politica abbia ancora diritto ad una dignità. La presa di posizione di una donna che con coraggio e decisione ha posto un problema politico nel momento in cui la politica cede il passo alla demagogia. Ma 27 deputati contattati verosimilmente da Angelino e dai suoi occhi acquosi, che oltretutto non ha trovato il tempo di chiamare Nunzia, e allora io, per dispetto, per capriccio e in omaggio, affido a lei le note dei Sanfedisti. Allo suono del gran cancio, viva l'uva, buono qua. Allo suono del tamburier, sorriso con i poveri. Allo suono del campano, viva, viva. Oltretutto. Paolo da Belluno ci scrive: persevera la lotta pro ex cavalieri patetici. Che tristezza, un Minoli venduto in questo modo. Ciao soldatini, buona lettura pubblica dei complimenti. Paolo, come vedi, non leggiamo i complimenti. E tu forse non ascolti la trasmissione. Ma non importa, però ognuno, tot capita, tot sentenze. Bolla. No, abbiamo. Fermi tu. Bolla, vai. Continuiamo. This must be underwater. Allora, sentite, un po' liquida questa musica. È un drone subacqueo. Ho visto stamattina una cosa straordinaria. Tutti pensiamo drone ormai è sinonimo di un oggetto, oggetto volante senza pilota. Sì. In realtà c'è pure il drone subacqueo. Lo sta testando ovviamente chi? Il DARPA, anzi l'agenzia, no? Che del Pentagono, quella che poi ha creato Internet nella sua prima fase. Ovviamente è molto interessante, perché il drone sottomarino viene depositato sul fondo, si addormenta. Poi, quando c'è un'emergenza militare o civile, viene risvegliato ed entra in azione. Quindi è mostruoso, letale, vero. Siamo ormai oltre Jules Verne e ben oltre Asimov. Professor Simonelli, Giorgio Simonelli, storico della televisione. Allora, si parla tanto di televisione, di Rai, di riforme, ma il servizio pubblico dov'è? Senta, le faccio una domanda. Sì. Qual è l'episodio storico fondamentale del 92? È forse Tangentopoli? È forse l'elezione di Scalfaro alla presidenza della Repubblica? L'attentato a Falcone? Nessuno di questi. No, qual è? L'episodio è la nascita del karaoke sulle reti Mediaset con Fiorello. Quella è la storia della televisione e quindi della società italiana. Siccome oggi è il 1 aprile, ho voluto farvi uno scherzo. Ma mica tanto, professore, perché questa settimana è tornato karaoke. Non c'è Fiorello, c'è Pintus, che non è Fiorello ma magari si farà, ma soprattutto c'è in quella trasmissione, e guardatela bene, guardatela, c'è un pezzo di Italia, più che in tanti programmi seri, più che nelle piazze che vogliono rappresentare le piazze arrabbiate, indemoniate, contro il governo, contro lo Stato. Guardate karaoke per capire. Va bene, professore. Ma sa cosa le voglio dire? Il problema vero sa qual è? Che è molto difficile raccontare la storia recente. Fatica anche la famosa fiction di Sky sul 92, ma faticano tutti a raccontare la storia, tant'è vero che il nuovo programma di Rai 3 che si chiama D-Day e che è un progetto interessante, viaggia attorno al 3%. Si fatica a fare 3% poi. Basso, dicono quelli che a che ora va? No. Si fatica prima a serata, prima serata il 3%. Vabbè, ma ci sono illustri colleghi suoi che invece non la pensano come lei. Però è meglio guardare il karaoke. Va bene, grazie professore. Grazie professore, buona Pasqua a lei. Ecco, Marina Milone, oggi che storia ci racconti? È la storia di Marie Curie, due premi Nobel, uno per la fisica, uno per la chimica, la madre della radioattività, una donna che ha dato la sua vita alla scienza. Per lei, uno studioso nel suo laboratorio non è solo un tecnico, ma un bambino messo di fronte a fenomeni naturali che lo impressionano come una fiaba. Marie Curie, tra l'altro, ha ispirato la vita di molte scienziate, tra cui Fabiola Gianotti, attuale capo del CERN. Bene, dopo il giornale radio, la vita di Marie Curie. Ma prima della pubblicità, ritornerò da te, di Caccamo. Immagina di noi l'inverosimile, un posto surreale dove vivere e poi perdersi. Immagina che niente possa ucciderci, parlami di te come noi.